Innanzitutto diciamo che è nata appunto la categoria degli ultra economici portatili, nel senso che sono computer piccoli, molto leggeri, da portare sempre con sé e così via, e che costano veramente molto poco. Il capostipite di questa categoria è le PC di Asus, che è un computer che pesa molto meno di un chilo, pesa sui 700 grammi, molto piccolo e ha uno schermo anche veramente abbastanza limitato. Infatti adesso dovrebbero uscire le nuove versioni con uno schermo più grande, perché il primo nato aveva uno schermo a 7 pollici che è veramente piccolino. Però la cosa che lo caratterizza veramente tanto è il fatto che costa solo 299 euro, cioè costa veramente quasi poco meno di un palmare, perché dei palmari costano a volte di più. Quindi è un computer che costa veramente poco. È una categoria proprio nuova. Molti ci stanno entrando, ad esempio MSI uscirà anche adesso con prodotti di questo tipo, con schermi un po' più grandi, da 9 pollici a 10 pollici, però appunto sempre con quest'idea, un prodotto piccolo, leggero, ma dal costo estremamente contenuto. Questa è la categoria nuova. Nei prodotti, diciamo così, sempre di classe economica, quello che stanno andando tanto, soprattutto appunto che vengono venduti in grandissima maggioranza nei grandi magazzini, sono appunto i desktop replacement, cioè i computer da 15 pollici, dove, che vengono, non vengono tanto utilizzati da portare appresso, non vengono portati in giro, ma rimangono molto in casa, quindi hanno uno schermo grande dove ci si possono vedere bene le foto, vedere bene i film e così via, e hanno dei costi decisamente accettabili, perché parliamo di prezzi che possono andare dai 500 ai 700 euro, quindi un po' alla portata veramente di tutte le tasche. Sono però prodotti che hanno un'ottima, abbiamo detto, caratteristica per quanto riguarda le prestazioni, quindi hanno già anche processori evoluti, buona dotazione di RAM, buona dotazione di disco, però diciamo hanno le due caratteristiche limitanti, sono che hanno poca autonomia, perché chiaramente per poter alimentare tutta questa dotazione hardware comunque servono le batterie molto grosse e comunque l'autonomia complessiva non va oltre le 2 ore, diciamo mediamente. Hanno poca autonomia e l'altra cosa è il peso che è decisamente elevato e quindi non è la macchina ideale appunto per un grande viaggiatore.